Nel frattempo, all'altro capo di Parigi si svolgeva uno spettacolo molto diverso. La Berma, come ho detto, aveva invitato alcune persone a prendere il tè da lei per festeggiare suo figlio e sua nuora, ma gli invitati tardavano ad arrivare. Saputo che Rachel recitava dei versi in casa della principessa di Guermont, cosa che scandalizzava non poco la Berma, grande artista per la quale Rachel continuava a essere una puttanella a cui si concedeva di comparire negli spettacoli in cui lei, la Berma, era protagonista, perché Saint-Lû le pagava i costumi di scena, scandalo tanto più grave in quanto aveva fatto il giro di Parigi la notizia che gli inviti erano a nome della principessa di Guermont, ma che in realtà era Rachel a ricevere in casa della principessa. La Berma aveva scritto di nuovo ad alcuni fedeli insistendo perché non mancassero al suo tè, sapendo gli amici anche della principessa di Guermont che avevano conosciuta come Verdurin. Ma le ore passavano e dalla Berma non arrivava nessuno. Bloch, cui era stato chiesto se volesse andarci, aveva risposto ingenuamente: «No, preferisco andare dalla principessa di Guermont». Ahimè, era quello che dentro di sé avevano deciso tutti. La Berma, affetta da una malattia mortale che la costringeva a frequentare poca gente, aveva visto aggravarsi le proprie condizioni quando, per provvedere ai bisogni di lusso della figlia, bisogni che non potevano essere soddisfatti dal genero cagionevole e pigro, era tornata a recitare. Sapeva di abbreviare i propri giorni, ma voleva far felice la figlia, alla quale consegnava cospicui ingaggi, al genero che detestava, ma blandiva, perché, sapendolo adorato dalla figlia, temeva, se lo avesse scontentato, che lui le impedisse per malvagità di vederla. La figlia della Berma, amata in segreto dal medico che aveva in cura il marito, si era lasciata convincere che le rappresentazioni di Phèdre non costituissero per la madre un grosso rischio. Aveva in qualche modo costretto il medico a dirglielo, non avendo recepito altro di quanto lui, fra tante obiezioni a cui lei non dava alcun peso, le aveva risposto. In effetti, il medico aveva detto di non vedere gravi inconvenienti nelle recite della Berma. Lo aveva detto perché sentiva che dicendolo avrebbe fatto piacere alla giovane donna che amava, forse anche per ignoranza, perché sapeva come la malattia fosse in ogni caso inguaribile e perché ci si rassegna volentieri ad abbreviare il martirio dei malati quando ciò che è destinato ad abbreviarlo torna a nostro personale profitto. Forse anche per la sciocca idea che la cosa faceva piacere alla Berma e le avrebbe dunque fatto bene. Sciocca idea che gli era parsa giustificata quando, avuto un palco dai figli dell'attrice e abbandonati per questo tutti i suoi malati, l'aveva trovata tanto stupefacente di vita sul palcoscenico quanto gli era sembrata moribonda a casa. E in effetti le nostre abitudini ci consentono in larga misura, consentono perfino ai nostri organi, di adattarsi a un'esistenza che al primo momento non sembrerebbe possibile. Chi non ha visto un vecchio maestro di maneggio affetto da disturbi cardiaci fare tutte le acrobazie cui si sarebbe potuto credere che il suo cuore non avrebbe resistito un minuto? La Berma non era una meno vecchia abituée della scena, alle cui esigenze i suoi organi erano così perfettamente assuefatti che poteva dare, spendendosi con una prudenza inafferrabile per il pubblico, l'illusione di una buona salute turbata solo da una malattia puramente nervosa e immaginaria. Per quanto, dopo la scena della dichiarazione a Ippolito, la Berma sentisse quale notte spaventosa avrebbe passata, i suoi ammiratori l'applaudivano a tutta forza, proclamandola più bella che mai. Rincasava in preda a sofferenze orribili, ma felice di portare a sua figlia i biglietti azzurri che per una monelleria da vecchia figlia d'arte aveva l'abitudine di infilare nelle calze, da dove li estraeva con fierezza, sperando in un sorriso, in un bacio. Purtroppo, quei biglietti non facevano che consentire alla figlia e al genero nuovi abbellimenti della loro casa, contigua a quella della madre, donde incessanti colpi di martello che interrompevano il sonno di cui la grande attrice avrebbe avuto tanto bisogno. A seconda delle variazioni della moda e per conformarsi al gusto del signor di X o di Y che speravano di ricevere, i due modificavano ogni locale. E la Berma, sentendo che il sonno, unico possibile calmante per il suo male, era svanito, si rassegnava a non dormire più, non senza un segreto disprezzo per quelle eleganze che affrettavano la sua morte e rendevano atroci i suoi ultimi giorni. Era certamente un po' per questo che le disprezzava, vendetta naturale contro ciò che ci fa male e che non siamo in grado di impedire. Ma anche perché, cosciente del genio che era in lei, consapevole sin dalla più giovane età dell'insulsaggine di tutti quei decreti della moda, personalmente era rimasta fedele alla tradizione che aveva sempre rispettata, di cui lei stessa era l'incarnazione, che le faceva valutare le cose e le persone allo stesso modo di 30 anni prima e, per esempio, giudicare Rachel non come l'attrice alla moda che era oggi, ma come la puttanella che aveva conosciuta. La Berma non era del resto migliore di sua figlia. Era da lei che la figlia aveva preso, per eredità e per contagio dell'esempio, reso più efficace da un'ammirazione sin troppo naturale. Il suo egoismo, il suo scherno spietato, la sua inconsapevole crudeltà. Solo che tutto questo la Berma l'aveva immolato alla figlia e se n'era così liberata. D'altronde, se anche non avesse avuto continuamente gli operai per casa, la figlia della Berma avrebbe ugualmente affaticato la madre, nel modo in cui le forze attrattive, leggere e feroci della giovinezza, affaticano la vecchiaia e la malattia che si stremano nel tentativo di seguirle. Tutti i giorni era una nuova colazione e la Berma sarebbe parsa egoista se ne avesse privato la figlia e persino se non avesse partecipato alla colazione per cui si contava allo scopo di attrarre con gran fatica qualche conoscenza recente e riluttante sulla presenza prestigiosa della madre illustre. A quelle stesse conoscenze la si prometteva, in segno di cortesia, per qualche festa fuori e la povera madre, gravemente impegnata nel suo colloquio a tu per tu con la morte che si era installata dentro di lei, era costretta ad alzarsi presto, a uscire. Di più, siccome nello stesso periodo Réjean, nel pieno splendore del suo talento, diede all'estero una serie di rappresentazioni che ebbe un successo enorme, il genero ritenne che la Berma non dovesse lasciarsi eclissare, volle che la famiglia raccogliesse un'uguale messe di gloria e costrinse la Berma a tournée durante le quali dovettero farle iniezioni di morfina che potevano esserle mortali a causa delle condizioni dei suoi reni. Questo stesso demone dell'eleganza, del prestigio sociale, della vita, aveva, il giorno della festa in casa della principessa di Germain, fatto da pompa aspirante, attraendola con la forza di una macchina pneumatica, persino i più fedeli abitué della Berma, in casa della quale, per contro e per conseguenza, regnavano il vuoto assoluto e la morte. Un giovanotto che non era sicuro che la festa della Berma non fosse anch'essa brillante, c'era andato. Quando la Berma vide che era passata l'ora e che tutti l'avevano abbandonata, fece servire il rinfresco e ci si sedette a tavola, ma come per un banchetto funebre. Niente nel volto della Berma ricordava quello la cui fotografia mi aveva, una sera di mezza quaresima, tanto turbato. La Berma aveva, come dice la gente del popolo, la morte sul viso. Stavolta sembrava davvero un marmo dell'Eretteo. Le sue arterie indurite erano già mezzo pietrificate. Si vedevano lunghi nastri scultorei percorrerle le guance con una rigidità minerale. Gli occhi morenti vivevano relativamente, per contrasto con quella terribile maschera ossificata, e brillavano debolmente come un serpente addormentato in mezzo alle pietre. Eppure il giovanotto, che s'era messo a sedere per cortesia, guardava di continuo l'orologio, attratto com'era dalla brillante festa Germain. La Berma non ebbe una sola parola di rimprovero per gli amici che l'avevano abbandonata e speravano ingenuamente che lei non avrebbe saputo della loro presenza in casa Germain. Mormorò soltanto: «Una Rachel che dà una festa dalla principessa di Clermont. Bisogna venire a Parigi per vedere di queste cose». E mangiava silenziosamente e con una solenne lentezza dei dolci proibiti, dando l'impressione di obbedire a qualche rito funebre. Il tè era ancora più triste, perché il genero era furioso al pensiero che Rachel, che lui e sua moglie conoscevano benissimo, non li aveva invitati. Il suo rovello fu accresciuto dal fatto che il giovanotto gli aveva detto di conoscere abbastanza bene Rachel per poterle chiedere, se fosse andato subito dai Germain, di invitare all'ultimo momento anche la frivola coppia. Ma la figlia della Berma sapeva troppo bene a quale livello infimo la madre situasse Rachel e che l'avrebbe uccisa di dispiacere se avesse sollecitato un invito dall'ex puttana. Così aveva detto al giovanotto e al marito che la cosa era impossibile, ma si vendicava mettendo su durante la merenda certi piccoli bronci che esprimevano il desiderio di svaghi e il dispetto d'esserne privata da quella seccatrice di sua madre. Questa faceva finta di non vedere le smorfie della figlia e rivolgeva di tanto in tanto, con voce morente, una parola gentile al giovanotto, l'unico invitato che fosse venuto. Ma ben presto il vortice che trascinava tutto verso i Germain e che ci aveva trascinato anche me ebbe la meglio. Il giovanotto si alzò e se ne andò lasciando Fedra o la morte, non si sapeva bene quale delle due, a finir di mangiare con la figlia e il genero i suoi pasticcini funebri.